Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata di Respiro, nella quale parliamo di mobili. Perché? Perché si è chiuso questa settimana a Milano il Salone del Mobile, un appuntamento ormai internazionalmente noto che di anno in anno, ed è questa la parte che ci riguarda, amplia gli spazi dedicati all'eco design e alla sostenibilità ambientale. Nel salone o fuori di esso, tra le tante iniziative collaterali, si è visto e discusso un po' di tutto, di pratiche casalinghe ecosostenibili, di innovazione tecnologica per la casa, ma anche per la produzione di nuovi materiali, con un occhio sempre aperto sul riciclo e il riuso per realizzare nuovi oggetti belli sì da vedere, ma anche buoni per l'ambiente. Anche quest'anno il salone l'ha visitato per Radio 24 Lara Vecchio e quindi a lei cediamo il microfono per questa puntata. È un incontro di culture, di mode, di tendenze, un appuntamento irrinunciabile per gli operatori del settore, gli imprenditori e la città di Milano, ma soprattutto negli ultimi anni il Salone del Mobile è diventato un momento per fare riflessioni sul futuro del design in tutte le sue declinazioni, su come cambiano case, città, stili di vita, con attenzione sempre più consapevole all'ecologia e alla sostenibilità. Si moltiplicano dibattiti, iniziative, prodotti. Il Fuori Salone è stato l'occasione per incontrare Carlo Ratti, direttore di Sensible City Lab, ingegnere e architetto, sul tema Evergreen, la sostenibilità da moda effimera a scelta quotidiana. Le idee ci sono, ma forse vanno più veloce della possibilità reale di realizzarle, o sbaglio? Ma forse sì, ma questo è un bene o no? Ma io credo che proprio in un certo senso c'è un bene che ci sia la visione, ci sia l'utopia, ci sia il pensiero, ci sia l'idea che traina. E poi sì, spesso l'esecuzione pratica magari poi è più difficile, ci vuole più tempo, eccetera. Però che l'idea sia avanti penso sia un bene. La mentalità sta cambiando, la sensibilità anche delle persone comuni, no? Se ne è parlato tanto, sembrava addirittura troppo, invece un po' di cultura della sostenibilità adesso c'è anche tra la gente comune, un'attenzione maggiore a una serie di cose. Sì, io credo che sta cambiando molto in fretta e credo che sia proprio la cosa fondamentale di questi anni è il modo in cui la nuova condizione, che è una condizione tecnologica, una condizione di design, sta cambiando la nostra vita, il nostro lifestyle. Basta pensare come è cambiato il nostro lifestyle negli ultimi 20-25 anni, dai telefoni cellulari a internet, è radicalmente cambiato. Ecco, allo stesso modo è proprio dal nostro lifestyle che credo possa partire questa rivoluzione, chiamiamola sostenibile, che ci permette di vivere in modo diverso. Lei sta realizzando progetti in tutto il mondo, quindi può farci magari un confronto e vorrei capire un attimo l'Italia com'è situata rispetto al resto del mondo nell'approccio alla sostenibilità, per partire dal basso fino ad arrivare alla sensibilità anche delle istituzioni che poi sono quelle che danno la possibilità di tradurre i progetti e le idee. L'Italia come sempre, l'Italia è un paese che ha delle punte molto molto avanzate, però come sempre un po' a macchia di leopardo, quindi in cui manca un po' l'idea di fare sistema, di procedere insieme, per cui ci sono delle punte assolutamente di eccellenza, a volte delle punte anche non di eccellenza, gli due estremi insieme. Ci sono dei paesi invece, tipo la Danimarca, che puntano in modo compatto, coeso, da città come Copenaghen a tutto il paese, cercano di procedere con una linea comune condivisa. Ecco, questo non succede in Italia. Ecco, in un mondo perfetto lei dove lavorerebbe sempre? Io capisco che uno come lei è abituato e vuole, no, lavorare in tutto il mondo, però l'ambiente perfetto per lavorare nel migliore dei modi su questi... Ma se ci fosse un ambiente perfetto non ci sarebbe bisogno dei designer, perché insomma i progettisti devono entrare in gioco per migliorare l'ambiente, per introdurre nell'ambiente qualcosa che prima non c'era. Io parlo proprio delle condizioni per coltivare. Per quanto riguarda le condizioni è qualcosa di molto vario. Io credo che in ogni posto ci siano condizioni ideali per qualcosa. Ecco, per la sostenibilità la Danimarca è molto avanti, per i temi urbani oggi l'Australia sta lanciando le grandi campagne, per i temi della tecnologia molti paesi asiatici dove lavoriamo noi, da Singapore alla Cina, stanno davvero puntando in quella direzione. E quindi penso che dipenda un po' dal tema che vogliamo guardare. L'ultima domanda, che è quella da cui siamo partiti oggi, siamo sicuri che non sia più una moda parlare di sostenibilità oppure c'è ancora tanta strada da fare? Io credo che probabilmente c'è ancora il componente di moda, ma la componente di moda non è così negativa. L'importante è che c'è qualcosa di più solido sotto, e quello di più solido sotto che sta cambiando è proprio il lifestyle, cioè il modo in cui viviamo, il modo in cui decidiamo e agiamo tutti i giorni. L'occasione è stata il lancio del numero speciale a impatto zero di 24 Magazine. Sentiamo la direttrice Fernanda Roggero che ci racconta l'iniziativa. Beh, diciamo che abbiamo pensato che siccome il tema del numero era la sostenibilità, abbiamo cercato di essere sostenibili anche noi. Devo dire che ci ha anche fatto un po' impressione, perché quando poi LifeGate ci ha detto quante, adesso non mi ricordo la cifra esatta, però quanta CO2 avremmo dovuto compensare, ci ha fatto venire un po' un colpo. Però, insomma, diciamo che la compensazione con la riforestazione, piantando alberi, è attualmente la cosa più semplice da fare, per cui abbiamo scelto questa strada. Sappiamo che ne esistono altre, però insomma ci sembrava già almeno un primo passo. Ecco, diciamo che questa però è anche purtroppo la dimostrazione che nella pratica, ad esempio, un giornale, un settimanale sostenibile sarebbe quantomeno improbabile, nel senso che non può tutte le settimane prendersi un impegno del genere. La sostenibilità completa ce l'hai se vai online. E quindi, che poi forse non è neanche vero fino completamente questo, però certo il discorso che noi abbiamo voluto fare e in cui effettivamente crediamo è che la sostenibilità deve diventare una cosa quotidiana, quindi abbiamo parlato di sostenibilità normale nei gesti quotidiani. Credo che sia l'unica strada da intraprendere per arrivarci piccoli passi, se no le idee, gli obiettivi troppo ambiziosi rischiano di essere talmente ambiziosi che poi non si raggiunge mai. Ecco, nel numero di 24 raccontate storie di sostenibilità, quindi obiettivi raggiunti ma anche obiettivi da raggiungere e anche con parecchie difficoltà. Partiamo dagli obiettivi raggiunti, vogliamo fare un esempio di una storia che avete raccontato di sostenibilità? Un esempio aziendale, che quindi è anche una cosa interessante per i nostri lettori, perché insomma noi siamo solo 24 ore, quindi parliamo agli imprenditori, è la storia di Patagonia, che è questa azienda che penso tutti conoscano, californiana, con un fondatore estremamente illuminato che ha fatto della sostenibilità proprio il proprio verbo, ed è anche un posto dove si sta molto bene, dove si lavora molto bene. Un esempio, un piccolo esempio vale per tutti. All'entrata dell'azienda c'è una lavagna on board, loro sono praticamente sulla spiaggia in California, dove è segnalato l'andamento delle onde, quindi quando arriva l'onda giusta i dipendenti prendono il surf sotto braccio e se ne vanno a fare surf con il padrone ben contento, tanto è vero che uno degli ultimi libri che ha scritto è proprio Let My People Go Surfing. Perché alla fine comunque ci sono delle forme di guadagno, no? In termini di soddisfazione dei propri dipendenti e quindi anche di resa, immagino. Sì, questo sì, poi adesso questo forse è un po' una cosa anche, lo fanno davvero, però ecco, a noi può apparire come un elemento di colore, ma l'azienda funziona molto bene, quindi fa profitti, per cui essere sostenibili non è che non significhi poi perderci, diciamo. La produttività ne guadagna. E non solo la produttività, proprio anche i fatturati. Raccontate anche di storie di grande volontà che si sono scontrate però con dei problemi reali, come sì. Se le idee corressero più veloci della capacità di realizzarle, no? Questa è stata una storia molto interessante, perché un collega nostro si è finto piccolo imprenditore, un imprenditore con coscienza ecologica, che aveva l'intenzione di compensare la propria impronta di carbonio. Quindi lui dice: io produco vaschette in polipropilene e voglio compensare. E lì è iniziato uno slalom pazzesco tra uffici, camere di commercio, regione, enti certificatori, consulenti, insomma. Alla fine di tutto questo giro poi non è neanche riuscito a farla questa compensazione. Ci si arrende. Si è abbastanza arreso, anche perché non si capiva neanche quanto gli sarebbe costata, addirittura qualcuno gli ha detto che avrebbe dovuto spendere 100.000 euro, che francamente è una cosa che ti pone poi qualche problema, insomma. Ecco, e senza neanche certezze di come effettivamente sarebbe stata poi compensata questa lei che si è fatta quindi una visione di insieme, pensa che questo sia un problema soprattutto italiano o è un problema che si riscontra anche all'estero? Abbiamo qualcosa in più o qualcosa in meno? Beh, forse da noi le cose sono partite un pochino più lentamente, quindi questa consapevolezza magari si sta affermando adesso in maniera un pochino più, più lenta, però c'è, non è che siamo tanto diversi dagli altri. E il problema appunto delle compensazioni c'è in tutto il mondo, credo che dappertutto qualsiasi imprenditore abbia difficoltà a capire come fare, ci sono un sacco di organizzazioni, già online ne trovi almeno una sessantina, per cui come fai a districarti è abbastanza complicato. C'è ancora un po' di strada da fare. Sì, però piano piano la mentalità delle persone sta cambiando, questo è un dato di fatto. Non è più una moda, come dicevate oggi, no? Secondo noi no, lo è stato, c'è il rischio che a volte venga appunto usato un po' furbescamente come un'operazione di marketing da qualche azienda anche. Però serve per parlarne comunque, per aprire dei dibattiti, no? Sì, e più che altro è proprio la consapevolezza dei consumatori che è cambiata, c'è un'attenzione e una sensibilità diversa. Ma anche le aziende espositrici del salone, chi per scelte e convinzione, chi per seguire il mercato, propongono prodotti sostenibili, sempre più innovativi. Eugenio Perazza, titolare di Magis. La grande novità legata alla ecosostenibilità doveva arrivare quest'anno, invece arriva il prossimo anno. Noi siamo molto attenti all'ecosostenibilità, ecco, sono 4 anni che stiamo sperimentando nuove tecnologie e il prossimo anno, first mover al mondo, portiamo dei progetti in legno liquido. E che cos'è il legno liquido? Il legno liquido sono gli sfridi di produzione del legno, gli scarti di produzione del legno, il legno vecchio abbandonato, il tutto viene finemente macinato, si ricava una specie di farina, poi impiegando dei legamenti del tutto naturali, usando il medesimo hardware della plastica stampata a iniezione, sia essa standard o assistita da gas, si ricavano degli oggetti in legno liquido e sono oggetti al 100% biodegradabili e riciclabili all'infinito. E siamo super convinti, io sono super convinto che questo rientri nelle coordinate delle attenzioni del consumatore del domani, sempre più attento all'ambiente, sempre più attento all'ecosostenibilità. Ecco, questo è il frutto di una nostra ricerca iniziata 4 anni fa. E adesso... Attraverso quali tappe siete arrivate a questa eccellenza? Beh, le tappe Magis è sempre un'azienda molto attenta alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti. Noi non siamo un'azienda che fa del design, almeno riteniamo di fare del design e non fare dell'esercizio di stile, perché per me c'è una grande differenza tra design e esercizio di stile. Il design deve essere sostenuto da un'idea forte, da un'altezza inventiva. Un po' questo è nel nostro DNA. Noi ci chiamiamo Magis, che è una parola latina che vuol dire di più, con nome omen, dicevano i latini, e noi siamo un'azienda benedettamente condannata a fare cose difficili e a fare cose diverse. E io credo che oggi sembra di assistere a una gara tra le aziende a diventare sempre più simili, a fare tutte le stesse cose. Io credo che il progetto Magis può piacere o non piacere, può essere bello o non bello, però ha una peculiarità sua, tutta sua, che si distingue rispetto a un panorama, va bene, abbastanza omologato. Ecco, questo è. Senta, lei mi ha spiegato appunto questo progetto del legno liquido, mi diceva che siete i primi? Siamo i primi al mondo a fare questo, ecco. Noi, voglio dirle, va bene, un'altra cosa in più, abbiamo nella copertina del nostro catalogo come elemento identitario della nostra corporate identity, va bene, abbiamo messo un mulo, che è un animale umile, è un grande lavoratore, è un campione in salita, e riteniamo che per queste ragioni, dal punto di vista della simbologia, rappresenti bene l'essenza e lo spirito della nostra azienda. Ed è tutto per oggi, grazie a Lara Vecchio per il suo lavoro al Salone del Mobile di Milano, grazie per la partecipazione oggi a Respiro. L'appuntamento con questa trasmissione è rinnovato alla prossima settimana, alla stessa ora. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.